Salva Danaio di Deborah Rosciani. A tutti buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Il fallimento o il rischio fallimento di compagnie aeree e tour operator sembra essere diventato in Italia una spiacevole tradizione estiva, quasi una maledizione, tra l'altro, come dice questa mattina il Corriere della Sera. Ricorderete per esempio l'estate del 2009, è stata prima la volta di MyAir, cancellazioni, ritardi e poi il ritiro del permesso di volo per la compagnia low cost vicentina. Poi il tour operator Todomondo, che ha lasciato a terra oltre 5.000 passeggeri, e infine un altro vettore low cost, Sky Europe, arrivato al punto di non avere denaro per fare il pieno di carburante ai propri aerei. Poi c'è stata l'estate del 2010, come dimenticare il crack di Viaggi del Ventaglio, un vero e proprio simbolo dei pacchetti vacanza made in Italy. Vi state chiedendo a chi potrebbe toccare per questa estate 2012? Ne parliamo proprio questa mattina a Salva Danaio, e purtroppo per i tanti turisti che hanno prenotato, in particolare sulle tratte che collegano Torino con Catania e Palermo, si tratta di Winjet, compagnia siciliana che vola dal 2003 e che si trova in uno stato di crisi tale da essere definita appesa ad un filo. La giornata di ieri è trascorsa in attesa di un accordo che dovrebbe essere stipulato dalla low cost catanese con Alitalia. Le trattative hanno come oggetto la cessione, ma l'intesa tra le parti è diventata più difficile dal momento che l'antitrust ha fissato alcuni vincoli che avrebbero reso ben poco conveniente l'affare per Alitalia. In parallelo, anche molti viaggiatori si sono trovati di fronte a lunghe attese, ritardi fino a 6-7 ore, e tanti altri temono, se non arriverà una schiarita nelle prossime ore, per il futuro della compagnia e soprattutto per la sorte dei voli prenotati per le vacanze del mese di agosto. Oggi a Salva Danaio approfondiamo la vicenda aggiornandovi sulle ultime novità. Torniamo a capire come deve comportarsi un viaggiatore quando si trova proprio a ridosso della vacanza a subire le conseguenze delle crisi economiche dell'azienda a cui si è affidato, e peraltro sono crisi che neanche a farlo apposta scoppiano sempre nel pieno della stagione estiva. Allora, se anche voi avete prenotato un volo con Winjet per questo mese di agosto e siete un po' intimoriti, raccontateci. Se tra l'altro siete anche tra i malcapitati dei ritardi degli ultimi giorni, raccontatecelo all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666 e noi ne parleremo con i nostri ospiti di questa mattina. Ritorna con noi, dopo averci già raccontato le vicende di Winjet ieri a Focus Economia, il collega del Sole 24 Ore, Giuseppe Chiellino, che saluto. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E poi andiamo all'avvocato Carmelo Calì, legale di Confconsumatori, uno dei massimi esperti in Italia per quello che riguarda anche le associazioni dei consumatori di questo settore. Avvocato Calì, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a radioascoltatori. Tra l'altro, proprio la Confconsumatori di Catania predispone ogni anno uno sportello del turista, che quest'anno è aperto anche nel mese di agosto, e immagino che in queste ultime ore, avvocato, abbiate avuto molte segnalazioni per quello che riguarda la vicenda Winjet, o no? Infatti siamo moltissime segnalazioni e molti passeggeri proprio raccontano di, addirittura si parla di 8 ore, anche più di quelle che si diceva di 5-6 ore, quindi ci troviamo di fronte a un'emergenza, anche se sembrano la giornata di oggi, non vorrei, incrociamo le dita, sembra che ci sia una certa regolarità. Allora, tra l'altro adesso ne parleremo, abbiamo così indicazione che l'accordo potrebbe essere stato raggiunto fra l'Italia e Winjet. Fra un po' Giuseppe Chiellino ci racconterà tutte le notizie dell'ultima ora che è riuscito a raccogliere, però di fatto resta in piedi la sorte di quei passeggeri, la condizione di quei passeggeri che sono magari riusciti a partire nelle ultime ore. Stamattina peraltro sono stati regolari i primi voli che sono partiti da Fiumicino, ma naturalmente avendo subito ritardi così ampi, magari si trattava anche di famiglie con bambini, quindi immaginate il disagio subito. Bisognerà capire adesso se la compagnia ha l'obbligo di rimborsare, indennizzare queste famiglie che hanno appunto subito questi disservizi e questi disagi. Quindi cercheremo di parlare di tutto questo. Oltre ai numeri che vi ho dato, ci potete anche scrivere all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare a curiosare sul nostro profilo Facebook, che è sempre lo stesso, salvadanaio-radio24. Rapidamente la borsa, prima di cominciare sul tema di oggi. Allora, adesso gli indici si sono portati sulla parità. La partenza era stata più promettente per le borse del vecchio continente, tutte in rialzo, anche Milano consolidava i progressi degli ultimi giorni, li aveva anzi ulteriormente ampliati. L'indice FTSE MIB si era riportato sopra i 14.500 punti, livelli dei primi giorni di luglio, adesso segna più 0,12%. Le altre piazze, Parigi più 0,16%, Francoforte meno 0,05%, Londra meno 0,33%, euro su dollaro a 1,2408, spread fra BTP e Bund a 465 punti base. Una giornata non particolarmente ricca di dati economici in arrivo appunto sia dall'Eurozona che dagli Stati Uniti, per cui probabilmente il mercato stamattina non ha molti temi sui quali puntare se non i soliti degli ultimi giorni. L'attesa per la formalizzazione della richiesta di aiuti all'Europa da parte della Spagna e poi attesa per le prossime mosse della BCE, che in ogni caso non arriveranno prima di settembre, per cui sarà probabilmente adesso una seduta interlocutoria, così la chiamano in gergo finanziario. Due parole sui migliori titoli di Piazza Affari: A2A più 1,8%, Mediolanum più 1,62%, Unicredit rimbalza dopo il calo di ieri più 1,45%, Enel più 1%, Telecom, Tenaris e Terna più 1%, abbiamo fatto il TRIS con la T, e poi in calo abbiamo Prismian meno 2,68%, Campari meno 2,46%, meno 2% in pregiro e Buzzi Unicem. Allora Giuseppe Chiellino, che notizie ci porti su questa estenuante trattativa per quello che riguarda le ultime ore tra i legali di Aditalia e i legali di Winjet? Ma a parte il messaggio che davi tu prima, cioè di questo avvio abbastanza regolare in mattinata dei voli della compagnia siciliana, che comunque si porterà dietro nel corso della giornata alcuni ritardi che sono già segnalati, si è aperto uno spiraglio abbastanza insomma serio, nel senso che dalle informazioni che abbiamo avuto poco prima della trasmissione l'accordo sarebbe stato raggiunto. Adesso i legali stanno perfezionando i documenti necessari a formalizzare l'intesa, e visto che l'ENAC ieri ha dato il termine di mercoledì, probabilmente se la prenderanno comoda per definire, per firmare poi l'intesa. Però questo probabilmente dà già fin da ora all'ENAC la possibilità di diciamo allentare la pressione su Winjet, e quindi i voli possono tornare più o meno alla regolarità. Allora sentiamo tra l'altro le rassicurazioni o gli auspici che in questo senso ci aveva espresso ieri ai microfoni di Focus Economia il presidente dell'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, Vito Riggio, che avevamo interpellato per fare un punto della situazione, e gli avevamo chiesto anche intanto di ricostruirci brevemente la vicenda, perché siamo arrivati a questa condizione così complicata proprio il 6 agosto, e soprattutto gli avevamo chiesto lumi su questo ultimatum vero e proprio che lui aveva lanciato, anche se invece il comunicato stampa ufficiale dell'ENAC aveva indicato che non era stato fissato nessun tipo di ultimatum, e lui molto più schietto invece ci ha detto sì vabbè, i miei uomini lavorano così, sono più diplomatici, io sono più informale. Sentiamolo. La trattativa è partita ad aprile con l'annunzio che c'era un accordo, sottoposto però evidentemente alla valutazione dell'antitrust. Questa valutazione in effetti è intervenuta a fine luglio e ha determinato, secondo Alitalia, una diminuzione netta di circa 2 milioni di valore di Winjet, e quindi questo ha rimesso in discussione la trattativa. Noi avremmo dovuto formalmente chiudere Winjet perché non aveva più i requisiti, però c'era questo impegno da parte dell'Italia a farsi carico, diciamo, delle condizioni finanziarie, fermo restando il dato della sicurezza, che invece è sotto controllo e con garanzia assoluta. E quindi adesso siamo nella stessa condizione, siamo in un periodo estremamente trafficato, dove moltissime famiglie hanno comprato biglietti perché appunto c'era questa trattativa, e oggi hanno diritto a viaggiare o almeno a essere avvisate e rimborsate. Quindi io dico, al massimo mercoledì dobbiamo avere una comunicazione ufficiale dell'esito della trattativa. Se positivo, bene; se negativo, è evidente che Winjet non ha la condizione per continuare. I miei sono molto più prudenti perché, evidentemente, essendo, diciamo, degli ingegneri, hanno usato una formula in cui dicono: non c'è un ultimatum, ma fate presto. Io traduco questo presto dicendo: badate che avevate detto che chiudevate nel fine settimana si può allungare fino a mercoledì, poi è un'altra settimana, insomma, quindi siamo fuori. Allora, e qui insomma vedremo se nelle prossime ore questo ultimatum sarà rispettato. Vorrei sentire un ascoltatore, Marco da Prato, che ci ha scritto una mail questa mattina poco prima dell'inizio della trasmissione. Noi ne abbiamo approfittato subito per coinvolgerlo a Salvadanaio perché ci raccontasse quello che gli sta succedendo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io vado in Sicilia ad agosto e ho comprato 2 mesi fa, quando nessuno parlava di acquisizione o fallimento di Wingjet, un biglietto aereo per 2 persone di ritorno da Palermo a Pisa per fine agosto. Ieri il sito della compagnia non diceva nulla, anzi continuava a vendere biglietti normalmente, anche stamattina l'ho controllato. In caso di fallimento io ho letto sul vostro sito del Sole 24 Ore e solo lì che Alitalia si prenderà a carico di voli venduti, perché sono stati loro a chiedere a Wingjet di continuare a vendere. Cioè, volevo sapere se è vero, funzionerà così, se ci sarà un sovrapprezzo, se mi devo preoccupare, cercare un altro volo di ritorno o prendere un biglietto del treno, perché poi, cioè, come chissà chi un po' viaggia, più si va sotto il giorno e più costano i biglietti. Certo, no, ma tra l'altro Marco, a parte questo, poi le farò sentire anche cosa ci ha detto il presidente Riggio a questo proposito sulle riprotezioni per chi si trova in difficoltà in questi giorni a causa della situazione di Wingjet. È anche un problema di tutti i voli prenotati, per cui anche se le altre compagnie, qualora la compagnia Wingjet fallisse, dessero la loro disponibilità ad incaricarsi di prendersi appunto questi passeggeri che rimangono in piedi, è un periodo di affollamento notevole sui voli, anche se molte famiglie hanno deciso di rimanere a casa e rinunciare alle vacanze. In realtà agosto, Giuseppe, è molto complicato come mese. Sì, volevo spiegare all'ascoltatore perché Wingjet continua a vendere i biglietti. Da quello che è emerso nei giorni scorsi. Ma anche per pagare Alitalia qualcosa? No, l'accordo tra Alitalia nel corso delle trattative ha chiesto a Wingjet di continuare a vendere tranquillamente biglietti, sicura che la trattativa sarebbe andata in porto. Quindi anche alla luce di questo l'ENAC ha chiesto ieri ad Alitalia soprattutto e a Wingjet, ma anche alle altre compagnie, di riproteggere, come si dice in gergo, i passeggeri. Quindi il motivo per cui Wingjet continua a vendere è che c'è un accordo con Alitalia. Le tensioni dei giorni scorsi hanno provocato anche poi a queste difficoltà che hanno colpito i passeggeri, ma se la prospettiva della sospensione della licenza di Wingjet si allontana, questa situazione dovrebbe essere risolta. Quindi non so quando l'ascoltatore ha previsto il suo rientro, ma probabilmente dovrebbe rientrare regolarmente. No, ti ho detto quella cosa di Wingjet deve dare i soldi dei biglietti all'Italia proprio in virtù di questa cosa che ci hai spiegato. Noi ieri abbiamo chiesto appunto la posizione di Alitalia, poi tu l'hai rifatto questa mattina. Siamo a disposizione per dare una mano per i disagi che stanno avendo i passeggeri, ci hanno detto, ma prima serve l'accordo con Wingjet, con loro banalmente ci devono dare i soldi dei biglietti e questi servirebbero appunto proprio per le riprotezioni, nella speranza che non ci sia bisogno di queste iniziative straordinarie. Avvocato Calì, vuole dare un messaggio di incoraggiamento e di tranquillità al nostro ascoltatore da Prato? Ma sì, diciamo che in ogni caso c'è un obbligo di Alitalia anche come ragionevole affidamento da parte di Wingjet, perché è chiaro, noi non sappiamo se c'è un accordo scritto o meno, per quello che capiamo sarà sicuramente questo accordo scritto. In ogni caso la realtà di fatto è che Wingjet ha continuato a mettere biglietti e a venderli sulla base di un via libera da parte di Alitalia, quindi è chiaro che Alitalia ha assunto un impegno nei confronti dei passeggeri oltre che nei confronti di Wingjet, e quindi da questo punto di vista a mio avviso dovrà garantire l'eventuale riprotezione appunto dei passeggeri per i voli futuri. Purtroppo devo dire che questo impegno Alitalia non lo ha mantenuto in questi giorni, per quello che si capisce, perché se c'era questo impegno doveva essere proprio in questi giorni, e proprio perché c'era una trattativa in corso, perché questa trattativa avesse la maggiore serenità sia per le parti sia per i passeggeri, dovevo in questi giorni di garantire a Wingjet di riproteggere o proteggere i passeggeri. Però avvocato, mi risulta, a meno che non me ne sia sfuggito qualcuno, che non ci siano stati voli cancellati, ci sono stati molti ritardi, quindi anche per i ritardi, anche se molto lunghi, perché addirittura c'è un volo che per Catania doveva partire ieri sera da Fiumicino alle 20.50 e decollato stanotte alle 4.20. Anche in questi casi Alitalia avrebbe dovuto garantire una riprotezione? Ma diciamo che in qualche modo deve essere garantita la regolarità delle partenze e degli arrivi, quindi un ritardo prolungato noi possiamo anche equipararlo, lo ha fatto prima di noi la Corte di Giustizia Europea, a una cancellazione nel momento in cui spetta l'indennizzo, quindi noi oggi potremmo chiamare eufemisticamente ritardi prolungati quelli che di fatto sono state in queste ore delle cancellazioni vere e proprie, perché magari c'erano delle difficoltà. Allora, siccome appunto la Corte di Giustizia ha equiparato il ritardo prolungato alla cancellazione, a mio avviso, o comunque in ogni caso, anche se ci troviamo di fronte a un ritardo prolungato, l'obbligo di garantire Wingjet che ha venduto i biglietti da parte dell'Italia adesso sussisteva, perché c'è una situazione contingente che conosceva benissimo l'Italia, quindi se Wingjet aveva una difficoltà operativa nel garantire le partenze, e all'Italia non si poteva girare dall'altro lato, soprattutto nel momento in cui la trattativa aveva questi momenti più aspri, potremmo dire, di contraddizione. Su questo punto le faccio sentire, avvocato Calì, la altrettanta chiarezza espressa ieri da Vitoriggio proprio sull'impegno che all'Italia avrebbe dovuto assumere in queste ore, o che quantomeno anche in una prospettiva peggiore possibile, appunto, dovrebbe, l'impegno che dovrebbe assumersi appunto la compagnia di bandiera, continuiamo a chiamarla così, qualora appunto saltassero le trattative per Wingjet, quindi cosa dovrebbe fare per garantire tutto il sostegno necessario ai passeggeri sfortunati. Io penso che sia giusto nell'interesse, per riguardo ai consumatori, che si abbia una certezza. Se la compagnia sta in piedi perché ormai c'è alle spalle l'Italia, meglio per tutti, a questo punto i voli dovrebbero essere regolari. Se non è così, occorre che Wingjet telefoni a tutti quelli a cui ha venduto biglietti avvisandoli che non ci sono i voli, e quindi rimborsandoli e dando la possibilità alla gente, se ce l'ha ancora, di avere delle opzioni, che non si possono rovinare. Se questo rischia di vanificare un'intera vacanza, non ne sono contemplati i programmi di riprotezione? Cioè, in ogni caso, che il biglietto va rimborsato all'Italia, non si potrebbe incaricare di questo, no? Visto che è stata anche un po' parte in causa del fallimento, esatto, delle trattative, mi chiedo. Questo è quello che noi abbiamo chiesto dall'Italia, come anche ad altri vettori. Ieri, per esempio, era pronto a farlo da Torino Meridiana, con ovviamente il pagamento di un piccolo supplemento, quindi insomma non saranno più i prezzi che le famiglie avevano avute al momento di acquistare il biglietto. Noi abbiamo chiesto di fare un prezzo politico, quindi quasi simbolico, e però il problema è se ci sono i posti, perché questo è il periodo in cui tutte le altre compagnie viaggiano a stracolmo. Infatti. Quindi dobbiamo avere una analisi chiara per evitare che la gente si presenti in aeroporto e poi si creino confusione o ulteriori aggravi. Meglio sapere che non si parte piuttosto che andare lì a aspettare ore ed essere trattata male. Questo noi non lo consentiremo. Allora, questa era appunto l'intervista a Vitoriggio ieri pomeriggio, ma ribadiamo, stamattina ci sono delle novità, le trattative dovrebbero andare verso una conclusione positiva. Allora, c'è un ascoltatore, Walter da Vicenza, che ci chiede: ma ci date alcuni dati di questa Wingjet? Chi sono? Quanti debiti hanno? Quanti aerei? Molti di noi non sanno di cosa parlate. Allora, pare che ci sia una schiarita all'orizzonte tra Wingjet e Alitalia per poter completare l'acquisizione da parte di Alitalia, appunto, della compagnia low cost siciliana, e fare in modo che si risistemino un po' tutte le condizioni di disagio in cui si sono trovati negli ultimi giorni i passeggeri di Wingjet, che stavano soprattutto andando verso la Sicilia, e che per una serie appunto di problematiche legate anche all'incertezza di queste trattative chiaramente hanno subito molti ritardi nelle partenze dei voli, tra cui alcuni ritardi clamorosi. Lo raccontavo prima, uno di stanotte, il volo per Catania delle 20.50 da Fiumicino è partito stanotte alle 4.20, stamattina da Fiumicino tutti regolari i primi voli. C'è qualche problema però per il pomeriggio, perché è stato posticipato alle 14.15 il volo per Catania, che dovrebbe partire alle 12.55, ed è stato spostato dalle 17.40 alle 19.40, un volo che era previsto appunto in partenza alle 17.40, quindi probabilmente anche i dipendenti ancora sono un po' in difficoltà, non sapendo che futuro avrà la compagnia, se nelle prossime giornate avranno ancora un posto di lavoro, magari stanno esprimendo il loro disappunto in questa maniera. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Adesso abbiamo un ascoltatore inedito per una trasmissione come questa, fra un po' ve lo presento, però prima Giuseppe Chiellino, dobbiamo accontentare l'ascoltatore che ci ha chiesto cifre, qualche indicazione in più rispetto alla situazione di Wingjet. Di chi è questo questa compagnia, come mai si è trovata nella condizione di essere messa sul mercato e di trovare anche questo acquirente abbastanza importante, perché siamo arrivati a questa situazione problematica di questi giorni? Ma la compagnia è stata fondata nel 2003 e solo l'ultimo tentativo siciliano di dotare la regione di una compagnia aerea autonoma, indipendente, regionale, chiamiamola così, per collegare la Sicilia al resto del paese e anche ad alcuni scali internazionali. Fa capo a Nino Pulvirenti, che è anche il presidente del Catania Calcio, quindi forse conosciuto anche per questo. Nel 2011 ha fatturato circa 240 milioni di euro, 242 per l'esattezza, che sono quasi un sesto del fatturato di Alitalia sul mercato nazionale. Faccio questo paragone per dare delle proporzioni, tenendo conto che Winjet fa quasi tutta la sua attività, praticamente tutta la sua attività sul mercato nazionale, mentre Alitalia lavora molto anche a livello internazionale e fattura complessivamente 3,4 miliardi di euro, fatturato l'anno scorso. Quindi è veramente una piccola compagnia, una dozzina di aerei, collega 12 scali italiani più 8, mi pare, 7-8 scali internazionali, ma sono soprattutto voli charter legati al turismo e villaggi turistici. Da quando è in difficoltà? Da quanto è sul punto di non avere risorse economiche sufficienti per garantire l'attività, tali per cui l'ENAC ha detto: se non abbiamo questi soldi io vi devo revocare la licenza di volo? Ma la situazione si è aggravata nelle ultime settimane, anche perché all'Italia si è irrigidita dopo la decisione dell'antitrust. Per ricostruirla, le trattative tra Alitalia e Winjet per l'acquisizione da parte di Alitalia sono partite ad aprile. Sembrava che ci fosse un accordo, l'accordo ovviamente, cioè l'accordo c'era, l'accordo è stato presentato all'antitrust, l'autorità che garantisce la concorrenza in Italia, che deve valutare se dalla fusione, dall'integrazione tra le due compagnie ci sono delle conseguenze negative dal punto di vista della concorrenza per i consumatori. E in effetti, dall'analisi che l'antitrust ha fatto su alcuni collegamenti, ce ne sono 5, 4, Catania-Bologna, Catania-Pisa, Palermo-Linate, Palermo-Torino, la somma dei voli all'Italia-Winjet elimina qualsiasi altro concorrente. Significa che il 100% dei voli sarà fatto dalla nuova compagnia, se l'accordo va in Quindi porto. È su questi punti che l'antitrust ha sollevato l'attenzione, ha detto: io non ve lo posso permettere, per cui riorganizzatevi nel contratto che vi porterà alla fusione. Ecco, in realtà l'antitrust non è andata a colpire questi collegamenti, questi ma collegamenti. ha imposto nel dare il via libera all'operazione, quindi l'antitrust ha detto di sì, ma ha imposto alla nuova compagnia, in realtà sarà costituita una NewCo, cioè una nuova società in cui confluiranno le attività di Winjet, di cedere 6 coppie di slot sui collegamenti Catania-Linate, Palermo-Linate e Catania-Fiumicino. Allora, gli slot sono quelle finestre di pochi minuti, finestre temporali che nell'organizzazione operativa di un aeroporto segnano lo spazio, il tempo necessario ad ogni aereo per decollare o atterrare. Certo, se ti salta il tuo, quello prefissato in un determinato orario, devi andare al tuo successivo disponibile. Ti metti in coda e prendi lo slot successivo. Quindi per una compagnia aerea, soprattutto una compagnia aerea piccola come Winjet, sono l'asset più importante, sono il bene più importante, ed è in realtà proprio quello che Alitalia vuole acquisire prendendo Winjet. E ovviamente sono soprattutto gli slot di Linate, che è l'aeroporto più congestionato del paese, sono quelli che hanno il valore economico più alto. Quindi Alitalia, alla luce di questa decisione dell'antitrust, ha rimesso in discussione l'accordo, come diceva prima il presidente dell'ENAC Riggio, fatto riascoltare l'intervista di ieri, chiedendo sostanzialmente quello che io definisco uno sconto di 2 milioni sull'operazione. Certo, stupisce un po', questa è la considerazione che mi faceva l'avvocato Calì prima a microfoni spenti, che fior fior di legali di queste due compagnie, soprattutto quelli di Alitalia, avvocato, si siano accorti adesso, resi conti adesso, che l'antitrust avrebbe potuto fare queste richieste, no? E quindi era anche abbastanza è anche, come dire, abbastanza fastidioso che si arrivi ad inasprire le trattative proprio nel bel pieno della stagione estiva, quando forse ci si poteva pensare un po' prima. Però insomma, questo è il migliore dei mondi possibili, non siamo nel paese delle meraviglie di Alice, siamo nella vita reale e capita tutt'altro. Avvocato Calì. Ma sì, certamente, perché Alitalia sapeva benissimo, già prima ancora di concludere l'accordo con Wingjet, qual era la percentuale degli propri slot su queste tratte di cui vi stiamo parlando, e sapeva benissimo, con una somma algebrica, a quanto avrebbe portato l'aumento dei voli facendo l'acquisizione di Wingjet. Oltretutto sapeva benissimo l'Italia che l'eventuale acquisizione anche di questi slot non avrebbe portato una semplice somma algebrica, ma avrebbe portato ad un impatto imprenditoriale che era molto più remunerativo che la semplice somma algebrica. Allora, queste cose all'Italia sapeva benissimo. Ora, forse pensava che l'antitrust sarebbe stata accondiscendente, avrebbe approvato al 100% questo accordo, e quindi si è scandalizzata farisaicamente, consentitemi di dirlo, quando è venuto fuori questo provvedimento. Ecco, diciamo che il provvedimento dell'antitrust, se non era già annunciato, in qualche modo era prevedibile. E allora non si può rimettere in gioco nel momento in cui viene fuori un provvedimento in qualche modo prevedibile. Ha la sensazione, avvocato, che abbiano approfittato per giocare immediatamente a ribasso e risparmiare qualcos'altro. Io non so se questo, però certamente risulta strano questo riaprire i giochi nel momento in cui c'è questo provvedimento, nel momento in cui questo tipo di provvedimento dell'antitrust è andato a incidere su delle rotte significative che avrebbero certamente determinato una situazione di monopolio che, attenzione, situazione di monopolio che nel medio periodo sarebbe andata anche a svantaggio della stessa Alitalia, perché certamente una situazione in cui Alitalia avrebbe coperto, per essere chiari, il 90% di questi slot su queste tratte, prima o poi avrebbe consentito l'insediarsi di altre compagnie europee. Cosa avrebbe impedito, che ne so, a una compagnia della Lituania, per dire, di inserirsi in questo mercato e andarlo a occupare? E sappiamo che oggi la situazione, la realtà europea, diciamo, ha la presenza di significative compagnie pronte a valorizzare tutte le nicchie di mercato che si aprono. Allora, forse che Alitalia non era in grado anche di prevedere questo, che una situazione di quasi monopolio avrebbe in qualche modo determinato queste cose. Allora, queste cose si sanno prima, si determinano prima. Quindi ora rimettere in gioco, e soprattutto rimetterlo in gioco in questo momento, certamente non è una posizione condivisibile e non è una posizione che è andata a beneficio dei consumatori. Io voglio essere chiaro, io non sono contro le acquisizioni, le concentrazioni in maniera preconcetta. Nel momento in cui un'acquisizione serve a garantire una maggiore concorrenza del mercato, io sarò il primo a dire che sarà benvenuta, però se si opera in questo modo, questa acquisizione è stata la cartina di tornasole attraverso la quale si è visto che l'obiettivo finale non era garantire ai consumatori italiani una maggiore concorrenza del mercato, ma tentare di fare un'operazione monopolista. Allora, se queste sono gli obiettivi, noi non siamo contrari, perché l'obiettivo del consumatore è quello di avere garantita. Voi non siete favorevoli. Una maggior concorrenza. Quindi quello che deve essere garantita al consumatore in qualsiasi settore è la maggiore concorrenza. Allora, se in questo settore le operazioni di acquisizioni servono a tentare di consolidare una posizione dominante di monopolio, allora noi non siamo d'accordo. Allora, perché non si favoriamo operazioni al contrario? Allora, in questo momento noi non sappiamo quali saranno i termini dell'accordo che si potrà andare a determinare. Ci mancherebbe pure che nelle prossime ore uscissero altre novità che fanno arenare di nuovo, che magari fanno arrabbiare i lavoratori, no? Perché noi abbiamo massimo rispetto per quello che sono diciamo gli esiti per i lavoratori, anche se il nostro compito è, però anche in qualche modo tuteliamo i consumatori, anche indirettamente tutelando quello che è il futuro dei lavoratori. Però dico, se oggi come oggi noi ci troviamo di fronte a questo tipo di soluzione, Regione, ci auguriamo che ci possa essere al massimo senso di responsabilità, perché a questo punto non si tratta di dire il rischio sarebbe la chiusura di Wingjet, il rischio sarebbe di una situazione di far west che si aprirebbe su questi slot anche. Allora è questo che si vuole anche? Allora, tutta molto interessante questa analisi, e io ve ne metto insieme a questa anche un'altra, che comunque le campagne pubblicitarie di marketing di questa azienda giustamente vanno avanti senza problemi, perché è chiaro che questa compagnia ritiene di poter essere assolutamente nelle condizioni di poter continuare ad operare, al punto che sono dei veri e propri mattacchioni, come li descrive il nostro Salvatore Gazziano, direttore di moneyreport.it, che generalmente ci aiuta ad affrontare e chiarire i meandri di altre vicende finanziarie italiane. Oggi però si trova a suo malgrado ad essere un po' coinvolto nelle vicende di Wingjet. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, perché sono dei mattecchioni questi di Wingjet, questi signori di Wingjet? Allora, è una sorta di contrappasso, perché occupandomi di finanza rischio questa volta, invece di occuparmi di default di banche, società, un default mi rischia di cadere adesso che dovrei partire in vacanza, andare in Sicilia, perché la compagnia non parte. Battuta a parte, dico che sono mattacchioni perché questa compagnia fino a pochi settimane, giorni fa, continuava a mandare email e continua a mandare promozioni per i propri viaggi. Ce n'è una divertente che ho anche pubblicato sul sito, proprio nella pagina Facebook di Salvadanaio, che dice: Wingjet Mobile ti regala l'usugno siciliano. Guarda, poi la faccio dire a Chiellino, che è calabrese, sicuramente gli viene meglio di te, che sei ligure, quindi sì, non sei proprio le lingue non le padroneggi bene. Esatto. E quindi praticamente attraverso l'usugno siciliano ti offrono virtualmente la possibilità di essere in Sicilia, quindi conoscere proverbi, situazioni, modi di dire, piatti e dolci tipici. No, aspetta, ricevi gratuitamente, lo leggo, le 24 lezioni semiserie di lingua siciliana e sicilianità di Zu Arancino. Ah no, poi dopo a Calì la faccio dire. Assolutamente. E quindi c'è una possibilità virtuale, cioè io ho comprato il biglietto per me e la mia famiglia, non posso forse andare in Sicilia, spero che entro venerdì la situazione, però ho la possibilità virtualmente di conoscere i piatti tipici siciliani, fare modi di dire, quindi in realtà virtualmente Wingjet ha voluto forse lanciare questo messaggio negli scorsi giorni. Allora Salvatore, insomma, dove te ne vai di bello? Qual è la meta finale? Beh, sarebbe l'Agrigentino dei miei genitori, ma ecco. Quindi tutto, sei siciliano. Ah, sì. Oltretutto, sì, infatti, sei ligure, ho detto, ma perché sei adesso lì da qualche tempo. Sì, doveva generarmi qualche sospetto. Salvatore, grazie molte per il tuo contributo di oggi. Sì, ricordo solo una battuta, riscuote la scheda giustamente di Chiellino. Un'altra cosa per divertirci: qualche anno fa l'imprenditore Nino Pulvirenti è stato eletto da una rivista Imprenditore dell'Anno. Bene, grazie per avercelo ricordato, per averlo ricordato a tutti i viaggiatori che in questi giorni sono lì che aspettano, esatto, e bivaccano negli aeroporti in attesa che i suoi voli partano. Ciao a tutti. Stiamo anche monitorando le agenzie per verificare se ci dovesse essere un'ultima ora sulla chiusura delle trattative fra Wingjet e Alitalia. Ancora nessuna notizia. I legali stanno avendo dei momenti incandescenti, non solo dal punto di vista meteorologico, se sono a Roma quelli che stanno trattando, ma sicuramente speriamo che definiscano al meglio gli ultimi punti dell'accordo. Intanto un altro paio di ascoltatori. Filippo è chiaramente ci chiama da Catania. Filippo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo sapere semplicemente perché la mia famiglia torna giorno 13 e sì, non saprei come comportarmi, visto che ho un volo per le 9 di sera da Milano, quindi non vorrei poi trovarmi nella, oltre che non ho soldi per fare altri biglietti. Certo, non saprei giustamente. Allora non far dormire la famiglia in albergo. Allora Filippo, io intanto le direi, e penso che lo possiamo suggerire tutti quanti, calma e gesso almeno per un altro paio di giorni, perché oggi è la giornata decisiva e le compagnie devono definire definitivamente l'accordo, per cui aspetti un attimo, continui a guardare i giornali, i siti, stressi il call center di questo gruppo. Secondo me non dovrebbero esserci problemi appunto per il rientro della sua famiglia. Avvocato Calì, prima mi deve dire in siciliano appunto come si dice l'usugno siciliano, e me lo deve dire proprio con tutta la giusta cadenza. Certo che l'usugno siciliano, no? L'usugno, ecco. Allora, detto questo, sogniamo, perché poi la Sicilia ci fa davvero sognare, la amiamo tutti profondamente. Filippo da Catania, ho dato la giusta indicazione, lo facciamo aspettare ancora un paio di giorni, poi senza che si fasci la testa e vada a preoccuparsi per la prenotazione di altri biglietti. Sì, condivido pienamente, anche perché rispetto a quello che accadrà sarà possibile dare il giusto consiglio. Quindi fin quando non sappiamo quale sarà il futuro, qualsiasi consiglio può rivelarsi errato. Mm-hmm. Quindi ormai siamo, in ogni caso, qualsiasi sia l'esito, ci auguriamo positivo, siamo sulla dirittura d'arrivo, quindi aspettiamo qualche giorno, qualche ora e poi si vede un attimo. Credo che siano le stesse indicazioni che possiamo dare anche a Pierangelo da Bergamo. Pierangelo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Che chiarisce sempre le cose. Speriamo. Il mio problema è questo: io ho prenotato un volo per la famiglia per fine settembre, per cui diciamo c'è ancora tempo. Sì, però certo. Il mio problema è quello di capire se questa prenotazione, un domani che Alitalia acquisisce, diciamo, Wingjet, come sembrerebbe, si fa garante lei di questi voli già prenotati o bisogna chiedere un rimborso eventualmente a chi? Tra l'altro, Pierangelo, allora, detto questo, per lei valgono le stesse considerazioni, tenga sotto osservazione la vicenda proprio in questi prossimi due giorni, direi. Ma tra l'altro, ecco, la nuova Wingjet sotto le insegne di Alitalia, Giuseppe, volerà sempre con gli stessi marchi, nelle stesse condizioni anche estetiche, cambia marchi oppure non cambia nulla? Ma questo non è stato chiarito. Secondo me, visto che è così piccola, manterrà una sua identità o no? Non credo, perché Air One ha mantenuto la sua identità, però Air One sta facendo il vettore low cost del gruppo Alitalia sostanzialmente, quindi non credo che per un gruppo come Alitalia, che è grande ma non è così... non ha dimensioni così grandi, avere più marchi, più livree, come si dice in gergo, possa avere senso, anche perché se Wingjet restasse con il suo marchio sarebbe la compagnia low cost dedicata alla Sicilia. Mi sembra un po' eccessivo, può darsi che venga inserita in Air One, visto che è già una compagnia low cost. Quindi... Allora, intanto, come vi ho promesso, sentiamo cosa ci hanno risposto ieri i ragazzi operativi alle call center, molto gentili naturalmente anche loro. Ieri probabilmente saranno stati un po' incerti, chissà quante telefonate hanno ricevuto, e il nostro Marco Lombardo li ha chiamati per capire un po' di che sorte ci sarà per il suo biglietto acquistato per un rientro dalla Sicilia per la fine di agosto. Sentiamolo. Wingjet, buongiorno, sono Valentina, posso aiutarla? Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per chiedere un'informazione. Ho un volo prenotato con voi per il 31 agosto da Catania a Torino, e visto che ho letto sui giornali di problemi di Wingjet... Di prenotazione, le chiedo, sì, scusa? Sì, sì, sì. EF7. E in un momento non c'è nessuna comunicazione, signor Marco, il volo volerà tranquillamente. Quindi queste notizie che leggo su possibili problemi proprio nel giro di un giorno, che la compagnia possa fallire? Successivamente, ancora noi non sappiamo nulla per questo. Quindi lei in questo momento mi assicura che comunque il mio volo... Sì, non c'è nulla, sennò non ci hanno comunicato nulla. Ho capito. Quindi in caso ci risentiamo più là, anche perché dal 6 al 31 ancora mi sa che... Ci vogliono altri 25 giorni. Ho capito. Va bene. Grazie. A lei, buona giornata. Caro Marco, al limite vai allo sportello del turista della Confconsumatori a Catania. Sono sicura che l'avvocato Calì sarà molto lieto di riceverlo, avvocato. Sì, con piacere. Cioè, speriamo che tra l'altro questo non si debba verificare. C'è un ascoltatore, Andrea da Livorno, che ci scrive: ma se Wingjet non ha i soldi per mettere carburante, com'è possibile che la stessa compagnia faccia la manutenzione ordinaria e non ai suoi velivoli? Per meglio dire, sicuro viaggiare con queste compagnie? Beh, sulla solidità finanziaria delle compagnie low cost ci siamo interrogati molto spesso. È chiaro che è una condizione finanziaria diversa quella in cui si trovano, e questo lo si vede anche sulla base dei servizi che garantiscono ai passeggeri, fanno molte riduzioni anche di servizi a bordo, ma questa è proprio la filosofia low cost, Giuseppe, quindi non è che Wingjet deve sorprenderci più di tanto. Se non hai soldi per mettere il carburante, sì, è qui che Alitalia interviene. Ma il dubbio dell'ascoltatore secondo me è legittimo, anche se il presidente dell'ENAC Riggio ieri garantiva in maniera assoluta sulle condizioni di sicurezza in cui volano le compagnie low cost, in particolare Wingjet. In questi casi i ritardi e le cancellazioni sono legati al fatto che l'ENAC, quando ha il dubbio che la compagnia non abbia le condizioni, la solidità finanziaria per assicurare l'attività, l'operatività dei voli, chiede per ogni volo che prima di dare l'autorizzazione ad ogni volo, chiede che i fornitori di quel volo, quindi compreso il carburante, siano stati pagati. Allora la sicurezza viene fatta prima, viene fatta in un'altra fase, quindi comunque Riggio, il dubbio è legittimo, ma l'ENAC garantiva ieri, garantisce sulle condizioni di sicurezza. Per quello che riguarda i livelli occupazionali invece, Giuseppe, questa compagnia quanti addetti ha, quanti ne riassorbe una eventuale integrazione appunto con Alitalia? Allora l'accordo prevede, i dipendenti di Wingjet sono 500, l'accordo prevede che 400 di essi vengano integrati in Alitalia. In più ci sarebbe un effetto sull'indotto di circa 300 posti di lavoro, però questo, se la compagnia continuerà ad operare, le forniture dovranno continuare ad essere fatte, quindi insomma non penso che l'effetto sia così alto. Mia moglie e figli devono volare Catania-Milano domani sera, c'è massima incertezza, oppure ormai per domani i voli sono garantiti. Un ascoltatore che è Daniele da Milano ci scrive, il call center si paga 0,90 al minuto. Marco è a pagamento, no? Ci confermi anche tu che ieri hai fatto la prova. A Catania alcuni voli, ci segnalano su Facebook, sono stati cancellati, e a Pisa quello di stasera parte domani mattina, eppure ascoltandovi sembra che sia tutto risolto. No, non abbiamo dato esattamente questo messaggio. Ci risulta, perché abbiamo interpellato le fonti di Alitalia, lo ha fatto Giuseppe Chiellino questa mattina, che si sia in una condizione di rush finale per la stipula dell'accordo definitivo, ma appunto, siccome c'è massima incertezza anche per... Tra l'altro, questi voli perché ritardano, Giuseppe? Anzi, chiedo all'avvocato Calì se ne sa qualcosa di più. Fino a quando non saltano completamente ufficialmente le trattative, tutto dovrebbe continuare regolarmente a funzionare, perché si stanno ritardando i voli? Che cosa succede agli aeroporti per cui appunto c'è questo aspettare tante ore da parte dei passeggeri? Qual è il mistero? Prima, perché è fisiologico che nell'arco della giornata... questo è traffico intenso? Diciamo, in ogni caso, molte volte, diciamo, regolarmente gli aerei che partono prima la mattina partono sempre puntuali. I ritardi si accumulano nell'arco della giornata, quindi c'è questa, diciamo, situazione fisiologica a prescindere dalla situazione di crisi di Wingjet. Ma non lo so, ma vi risulta che per esempio c'è qualche pilota arrabbiato che non si presenta al posto di lavoro, qualche hostess, carburanti fatti in ritardo perché non ha la possibilità di pagare? Il problema, a mio avviso, è che dobbiamo capire che ci troviamo in una situazione, mi si passi l'espressione, di guerra ancora, e che anche se, diciamo, dovesse esserci un accordo in queste ore, da qui a domani, dobbiamo capire che ancora ci troveremo in una situazione di uscita dalla guerra per qualche ora, per qualche giorno. Non dobbiamo farci illusioni. Purtroppo i consumatori continueranno a pagare in queste ore le conseguenze di quello che sta succedendo, e di questo sarà chiamato a risponderne, saranno chiamate a risponderne le compagnie in termini di indennizi, di compensazione pecuniaria e di risarcimento dei danni. Qual è il processo eventualmente, avvocato Calì, poi andiamo verso la chiusura, per la richiesta di un indennizzo in situazioni di questo tipo? Un ritardo di 7-8 ore, cosa deve fare un consumatore che si trova in questa circostanza? Diciamo, deve fare una richiesta di risarcimento, ha diritto innanzitutto alla compensazione pecuniaria, che come dicevo spetta in caso di cancellazione ma anche in caso di ritardo prolungato, e poi oltre alla compensazione pecuniaria, che diciamo 250 siamo in Italia, ecco, per i voli italiani. Poi spetterebbe anche la mancata assistenza, che nel caso in cui ci fosse la mancata assistenza, e in ogni caso il regolamento non esclude il risarcimento del danno ulteriore qualora il passeggero dimostri che da questo ritardo, da questa cancellazione ha avuto un danno ulteriore. Il problema è augurarci che ci sia un soggetto che possa rispondere di questi risarcimenti. Ah, un ascoltatore che tra l'altro ci scrive adesso, ci scrive anche, per chi ha un carnet che cosa succede? Beh, se ne farà carico all'Italia successivamente. Certamente. Per un pacchetto di viaggi già comprato. Certamente. E prenotato. Allora, certo. Per tutti gli ascoltatori, siamo già alla chiusura, indico sul sito dell'ENAC la carta dei diritti dei passeggeri in caso di disservizi del trasporto aereo, lo potete trovare anche sul sito della Confconsumatori, probabilmente anche su quello delle altre associazioni dei consumatori. lavoratori. Monitoreremo attentamente l'evoluzione della vicenda. Grazie all'avvocato Carmelo Calì, a Giuseppe Chiellino per essere stati con noi, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. Ritorna Marco a settembre, per carità, non prendere questa scusa per non tornare a lavorare a Salvadanaio. Matteo Comis in assistenza tecnica. A domani, buona giornata.